immagina la tua impresa, diciamo, tra 10-15 anni e come si immagina il mercato del fotovoltaico in Italia nei prossimi 10-20 anni? Io purtroppo non sono un analista, però credo che arrivare, non dico un impianto su ogni tetto, ma uno ogni tre sia possibile, specie in un paese come l'Italia. Mi piacerebbe essere parte di questo progetto di lungo termine. Luca, 2 mesi dal tuo rientro, primo bilancio, ne è valsa la pena tornare? Soprattutto è giunto il momento di un controesodo per ricostruire questo paese? Ma per me è andata molto bene, questi 2 mesi sono stati interessanti, piacevoli, però è un po' breve per fare un bilancio di lungo periodo. Controesodo, io più che altro spero che l'Italia diventi un paese attraente non solo per gli italiani che tornano, ma anche per altri paesi. Bisognerebbe fare un po' di marketing territoriale in un certo senso. Grazie a Luca Morganti, un enorme bocca al lupo, abbiamo bisogno di giovani come te. Grazie. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta dopo oltre 2 anni nel piccolo Granducato di Lussemburgo. Nome: Dario. Cognome: Dall'Oste. Età: 34 anni. Città di origine: Vicenza. Studi: laurea in giurisprudenza e master MBA. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2010. Per andare dove? Lussemburgo. Perché? Per raccogliere una scommessa. Quale lavoro svolgi attualmente? Direttore commerciale. Dove? International Lakers. Tornerai? Mi piacerebbe, ma dipende solo in parte da me. Hans Emecht, inno lussemburghese, sconosciuto ma esiste l'inno lussemburghese. Dario, per introdurre la tua storia, pensare di rientrare ora in Italia mi provoca quella stessa sensazione di salto nel buio che avevo quando sono arrivato in questo piccolo Granducato nel maggio di 2 anni fa. E non va bene sapere quel che si lascia, ma non quel che si trova quando stai pensando di tornare a casa tua. Non è così che dovrebbe essere. Così Dario scrivevi a giovanitalenti@radio24.it 7 mesi fa dopo l'ennesima promozione, sottolineando un incredibile paradosso: la vera patria, professionalmente parlando, non è dunque l'Italia per un giovane di talento, giusto? Per me è sicuramente così. Le statistiche dicono anche che sono in buona compagnia, purtroppo. D'altra parte, a distanza di quasi 3 anni, posso dire che le possibilità che ho avuto qui non sarebbero certo arrivate dall'Italia. E oggi vi raccontiamo una storia realmente significativa, quella di Dario. Una storia che ci può insegnare molto, ci tengo a sottolinearlo. La partenza in realtà è un po' sorpresa. All'università scegli infatti giurisprudenza. Perché? Sì, infatti all'epoca la carriera che volevo intraprendere era quella di avvocato penalista. Poi ho iniziato a lavorare in azienda e ho preferito il secondo percorso. Ma a condizionare il tuo percorso successivo interviene l'esperienza nell'azienda manifatturiera di famiglia. È lì che scopri l'enorme, paurosa divaricazione tra il mondo dello studio italiano, fatto di banchi e professori, e quello del lavoro. Qual è, in termini concreti, il gap tra il nozionismo accademico e la quotidianità del lavoro? Di fatto quello che viene a mancare è esattamente quel kit di strumenti che serve per competere nel mondo del lavoro. È così anche all'estero? All'estero è diverso. Il contatto tra università e aziende è un'offerta molto più standard che in Italia sembra essere quasi appannaggio delle università private. In azienda, come capita a molti figli di imprenditori, ti fai le ossa in un arco decennale, con un percorso giustamente graduale, da semplice venditore a responsabile vendite. Intanto ti specializzi con un MBA. Nel 2009 prendi una decisione coraggiosa, nonché abbastanza atipica, diciamolo. Lasci l'azienda di famiglia e decidi di intraprendere una carriera esterna da manager. Perché? Diciamo che all'epoca ho compreso che avrei potuto avere una migliore carriera come manager che non come imprenditore. Ed è a questo punto che scopri che 10 anni di esperienza, conditi da laurea e master, in Italia semplicemente non servono. Quanti colloqui hai fatto con aziende italiane e quante proposte di lavoro hai ricevuto in 1 anno e mezzo? Con oltre 30 colloqui all'epoca ricevetti 0 proposte. Incredibile, 0. Lei è troppo qualificato, lei non ha l'esperienza richiesta. Questi gli unici 2 feedbacks ricevuti, tra l'altro abbastanza discordanti. Tu te lo spieghi dando la colpa, per assurdo, ai tanti anni trascorsi nell'azienda familiare. Se il tuo datore di lavoro era tuo padre, come poter dimostrare con certificazione indipendente le tue capacità? Dario, però, ti ha mai sfiorato il dubbio che questo in realtà sia purtroppo il trattamento medio troppo spesso riservato ai giovani under 30? Purtroppo sì, e certamente il dubbio che avessi lavorato per esclusivamente intercessione paterna e non per reali meriti personali era quasi onnipresente in ogni colloquio che ho sostenuto. E ribaltiamo l'esperienza: quanti colloqui hai sostenuto all'estero e quante proposte hai ricevuto? Beh, la prospettiva la ribaltiamo davvero: 2 colloqui, 2 proposte. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Salvifico, è arrivato il mercato estero, ci scrivi. Colloquio, proposta, assunzione, trasferimento in Lussemburgo. Riassumi così con efficacia giovanitalenti@radio24.it. Essere giovane e avere una buona formazione alle spalle è dunque un vantaggio oltre le Alpi. Sarà forse mica per questo che l'Italia è un paese al contrario? Sembrerebbe di sì. D'altra parte, se non sono preparazione e formazione le qualità che possono farti assumere, mi domando quali possono essere. Ma la cosa ancora più sconcertante è che l'NBA si rivela per te un bonus importantissimo per ottenere lavoro in Lussemburgo. Quale posizione ti è stata offerta esattamente all'inizio? Mi viene offerta la posizione di responsabile vendite per il mercato italiano, con trasferimento in Lussemburgo. Ribaltiamo la prospettiva. Quale valore ha un NBA in Italia, soprattutto a livello di stipendio, ma soprattutto quanta ignoranza c'è nella cultura di valorizzazione dei manager in Italia, al punto che spesso si tende a preferire i diplomati perché costano meno dei laureati? Spero di non attirarmi le antipatie di qualcuno dicendo che in Italia il valore di un NBA è quasi a zero. Si pensi solo che qui tutti i titoli di studio declarati a curriculum li ho dovuti presentare in originale entro 3 mesi dall'assunzione, a pena di nullità del contratto stesso. E l'impatto con Lussemburgo com'è stato in termini di vita sociale e di stacco da amici e famiglia? Ci si sente un po' esiliati? Si pensa spesso che il trasferimento possa essere una bella avventura, ma è un'esperienza molto difficile e molto dura. Il supporto dei familiari è molto importante. Arriviamo al punto. Ci vuoi spiegare, Dario, in 7 rapidissimi passaggi il salto di carriera strepitoso che hai compiuto in neanche 2 anni in Lussemburgo? Facciamolo capire. In effetti arrivai qui nel maggio 2010 come responsabile vendite Italia, appunto. Nel luglio dello stesso anno mi vennero affidati il mercato iraniano e la gestione di un grosso cliente olandese. A distanza di pochi mesi, nel settembre 2010, mi venne affidato anche lo sviluppo del mercato del centro del Sud America. Pochi mesi più tardi, in ottobre, si aggiunse la gestione e la riorganizzazione del sud-est asiatico. Finché, a poco più che 10 mesi dalla mia assunzione, nel febbraio 2010, venni ufficialmente promosso a Sales Manager in Global Sales Coordinator, con piena responsabilità worldwide di una delle 3 business line del gruppo. A poco meno di 2 anni dal mio arrivo in Lussemburgo, nell'aprile 2012, arrivò la seconda promozione che mi portò all'attuale posizione, appunto, di direttore commerciale worldwide dell'azienda. E così accade che a 32 anni, tu che hai lasciato l'Italia amareggiato per capire se avessi davvero la stoffa del talento, hai imparato 2 nuove lingue, hai visto aumentare il tuo stipendio del 60% e sei cresciuto sia come manager che come uomo. Ci spieghi come nel concreto un ambiente meritocratico e competitivo, sottolineo queste 2 parole, renda possibile tutto ciò. Mi viene da dire nel modo più semplice e ovvio, ovvero riconoscendo meriti, capacità e risultati, e soprattutto contribuendo a far sì che le persone che giovano all'impresa restino nell'impresa e possano lavorare con soddisfazione al suo interno. E mentre tu crescevi e miglioravi, il tuo paese, l'Italia, sembrava restare sordo alle tue chiamate, perché a te non bastano più i poi vedremo, i mediocri. Dove si vede lei tra 5 anni, enunciati da recruiter improvvisati? Tu pretendi progettualità. A parte una sola buona offerta ricevuta, a quali colloqui ai confini della realtà hai dovuto sottostare nel bel paese quando hai provato a tornare? Qui è successo un po' di tutto. Potremmo citare un'azienda che rifiutò anche un primo colloquio conoscitivo perché avevo chiesto una chiacchierata via Skype, fino al recruiter che mi domandò se parlassi l'inglese e alla mia proposta di continuare il colloquio in inglese rifiutò non parlandolo lui stesso. E queste sono le punte di diamante. Una cosa mi ha colpito leggendo la tua lettera a giovanitalenti@radio24.it, il fatto che un piccolo paese con 500.000 di abitanti in Lussemburgo sia, definizione tua, uno dei maggiori importatori europei di lavoro qualificato, col 40% di popolazione straniera. Non è il paradiso, dici, ma ci spieghi anche come un paese, seppur minuscolo, cresca puntando sul capitale umano, anziché svilirlo e mortificarlo, come ha fatto per troppi anni il sistema Italia, no? Beh, il Lussemburgo è piccolo, con poche risorse naturali, i lussemburghesi sono pochi. Molto intelligentemente ha deciso di poter offrire qualcosa di veramente importante ai talenti esteri che volessero lavorare qui. Sicurezza sociale, agevolazioni per le famiglie, tasse basse, stipendi alti, buoni servizi. Sono ottimi biglietti da visita. Ed è qui che tu invia giovanitalenti@radio24.it la tua proposta shock, che sottoscrivo. Dopo aver creato per anni autostrade e corsie preferenziali ad amici, conoscenti e mediocri, grazie a favori e piaceri di ogni tipo, quale favoritismo dovrà questa volta fare l'Italia e a chi? Anziché eliminare, come si tende a fare soprattutto ultimamente, i privilegi, io li vorrei invece riservare a chi in questo momento sta dimostrando e ha dimostrato per il passato qualità e risultati all'estero. Quali condizioni poni tu per tornare, per avviare una rinascita di quello che considera ancora il più bel paese al mondo? Diciamo che sarebbe sufficiente il rispetto di quelle poche basilari che spesso si sentono ripetere nel tuo programma, ovvero merito e competenza. Domanda di rito, Dario, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Dal mio punto di vista non vanno anzitutto gli esempi. È difficile impegnarsi ed investire quando la cronaca riporta costantemente scandali e ruberie di ogni genere fatte da controllori che sono, a mio modo di vedere, molto peggio dei controllati. Qui in Lussemburgo, ad esempio, io le mie tasse le pago tutte e non mi pesano. La mia proposta la vorrei rivolgere all'università per far sì che venga veramente creato quel ponte tra università ed aziende che costituirebbe un volano incredibile, non solo nell'economia reale, ma anche per escludere dalle gerarchie universitarie tutti quegli improduttivi che un finanziatore privato non tollererebbe. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Dario Dall'Oste, 34enne direttore commerciale per la International Lacquers a Lussemburgo. Dario vi approda dopo una laurea in giurisprudenza accompagnata da un'esperienza nel settore vendite dell'azienda di famiglia. Conclusa l'università, opta per mettersi in gioco in prima persona inviando decine di candidature alle aziende italiane. Il risultato, oltre 30 colloqui, 0 proposte. Invia così due soli curricula all'estero ottenendo altrettante proposte di assunzione. Due anni fa Dario prepara le valigie emigrando nel piccolo Lussemburgo, dove in pochissimo tempo ottiene promozioni e passaggi di grado. Ora gestisce un team che raggruppa 6 nazionalità diverse. In Italia non riusciva neppure a farsi assumere come area manager per il Triveneto, a nota con amarezza. Ci raggiunge ora in linea Stefano Micheletto, direttore commerciale di un'azienda veneta di medie dimensioni. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao Sergio. Stefano, con Dario hai condiviso l'NBA, Trade Union, che unisce le vostre storie e hai avuto il suo medesimo sbocco professionale. La storia che abbiamo ascoltato è una sfortunata eccezione oppure per tua esperienza l'Europa e il mondo sono pieni di tanti Dario Dall'Oste che solo all'estero hanno trovato il terreno giusto dove poter far valere le proprie capacità? Sicuramente sì, in tanti anni di viaggio ho avuto modo di conoscere molte persone in Europa, piuttosto quanto anche in altri paesi, tipo, che ne so, l'America, il Singapore, l'Australia, vi dicendo, e ho avuto modo di conoscere molte persone che hanno trovato un terreno estremamente diverso da quello italiano, hanno trovato una possibilità, una cultura, una mentalità estremamente diversa, quella formula magica, diciamo, che ha permesso loro di mettere in campo sicuramente il proprio capitale umano, le proprie competenze, sia dirette che trasversali, ma sicuramente di essere valorizzati in maniera diversa. La tua, Stefano, è una bella storia. Hai cominciato come operaio per aiutare economicamente la tua famiglia dopo la perdita di tuo padre, da lì impiegato commerciale, ex portare a manager fino a direttore commerciale. Lavori moltissimo all'estero, parli 5 lingue e hai frequentato anche vari master. Con la fatica in Italia ce la si può fare allora o bisogna, secondo te, faticare comunque di più rispetto a chi lavora fuori? Io, Sergio, vorrei risponderti a questa domanda con un'altra domanda, cioè di che cosa ha bisogno un manager italiano di talento per poter volare in Italia? Ha sicuramente bisogno di dimostrare le proprie capacità e quindi di mettere in campo, ma ha sicuramente bisogno dall'altra parte di un'azienda che gli dia la possibilità di volare. Ma guarda, io da quello che ho potuto vedere, un'azienda dovrebbe avere una forma mentis diversa, dovrebbe avere un mindset orientato a riconoscere, valorizzare e a sviluppare i clienti interni dell'azienda stessa, a prescindere dall'ubicazione dove l'azienda stessa sia. Quindi sì, guarda, la zavorra sicuramente in Italia esiste laddove ci sono quelle aziende che non sono preparate a delle forme di ritenzione dei propri talenti o a quanto prima non sono preparate a riconoscere i talenti stessi che hanno in azienda. Anche perché il talento e il capitale umano sono le vere armi per combattere questa guerra della globalizzazione, questo va capito. E tu, tra l'altro, hai una forte esperienza lavorativa nel Veneto, regione molto industrializzata dove il tessuto è costituito da piccole e microscopiche imprese, spesso con una forte figura di riferimento padronale. Quanto, secondo te, questo ambiente favorisce o sfavorisce l'ingresso di giovani qualificati? Quanto il fattore capitale umano e la sua spinta innovativa vengono tenuti, insomma, in considerazione? Veneto riveste sicuramente una fetta importantissima dell'economia italiana. È composto, come dicevi tu, da aziende di medie e grandi dimensioni, ma anche di aziende piccole e microscopiche, dove comunque sia la presenza di una forte figura padronale è il suo riferimento unico ed importante. Io ho un grande rispetto per tutti gli imprenditori italiani e comunque, perché sono veneto, anche e soprattutto degli imprenditori veneti che hanno portato dal dopoguerra fino al giorno d'oggi il nome della propria azienda in Italia, in Europa e magari anche nel mondo intero. Però dobbiamo renderci conto di una cosa: il mercato internazionale, la situazione macroeconomica, finanziaria e anche politica sono estremamente cambiate. Siamo in un mercato globalizzato dove i social media e il brand perception hanno sicuramente un'importanza fondamentale e noi dobbiamo capire questo. Le aziende devono cambiare la propria mentalità, devono cambiare il proprio approccio e per fare questo hanno bisogno sì di un imprenditore illuminato che faccia innovazione, però non solamente di prodotto, ma che faccia innovazione delle risorse umane, che capisca che fare squadra vuol dire andare nel mercato tutti assieme, che vuol dire avere successo assieme e creare valore aggiunto. Stefano, a un giovane manager come te oggi cosa consiglieresti? Restare e lottare per portare anche qui una vera cultura manageriale, quella che accennavi tu, e di sviluppo, oppure andarsene? Ma sicuramente a tutti farebbe piacere dire state con la propria famiglia, state con i propri amici, state nel proprio ambiente dove siete stati da quando siete nati, ma io a un giovane manager in questo momento, previo a trovare un'azienda in Italia che abbia capito tutti i concetti che abbiamo esposto fino ad ora, consiglierei sicuramente di andarsene. Ricordiamoci che in Italia abbiamo una situazione politico-economica finanziaria molto difficile, le aziende da loro parte, che comunque io capisco anche, soffrono una pressione fiscale non indifferente e quindi a un giovane giovane talento, perché qui si sta parlando di giovani talenti, sicuramente direi vai, fatti la tua strada, che poi magari non si sa mai, magari puoi anche ritornare in Italia poi per portare la stessa cultura manageriale che tu ti sei sviluppato all'estero. Faccio l'avvocato del diavolo, e tu, se tu ricevessi una proposta di lavoro interessante in Italia o all'estero? Ma sicuramente la prenderai seriamente in considerazione, anche perché nella vita mai dire mai, qualche volta abbiamo bisogno soprattutto anche un po' di fortuna. Grazie a Stefano Micheletto, in bocca al lupo. E domanda diritto per Dario Dall'Oste: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Direi innanzitutto di curare il proprio curriculum per renderlo appetibile ad un lettore internazionale. Inviare mail meccanicamente non porta a nulla, deve esserci dietro un'attività di ricerca e di contatto precisa, ben preparata e scrupolosa. Precario il mondo, flessibile la terra che sto pestando, atipica la notte che sta arrivando, volatile la polvere che si sta alzando. Precario il mondo, non è perenne il ghiaccio e si sta sciogliendo, non è perenne l'aria e si sta esaurendo, ed indeterminato c'è solo il quando. Precario il mondo, si finché è normale, ma sembra ancora più precario questo stivale che sta affondando dentro un cumulo di porcheria, e quelli che l'hanno capito e diranno lì. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi vi raccontiamo un progetto molto interessante. Si chiama BrainDoc e realizza piattaforme internet per riunire emigranti a livello regionale. Tutto è nato da un gruppo di giovani altoatesini riunitisi nella Altoatesini nel mondo. Ci spiega tutto Cristian Girardi, amministratore delegato di BrainDoc. L'idea è nata per raccogliere il nuovo profilo dell'immigrante all'estero e metterlo in contatto con le imprese, con l'imprenditoria locale, in modo da sfruttare queste eccellenze in tutto il mondo. Poi via via abbiamo deciso, dopo 8 anni di rete delle altoatesine nel mondo, di metterci in proprio e dare consulenza ad altre regioni, specialmente nell'arco alpino, sia in Austria, Svizzera, che Germania e Italia, in tal senso. Nel vostro network quante realtà italiane ci sono? 3 realtà italiane, che sarebbero la Bellunesi nel mondo, la Pordenonesi nel mondo, e poi abbiamo anche aiutato all'Associazione dei Siciliani nel mondo. Come si articolano queste piattaforme? Quali sono i principali servizi? Ma i principali servizi sono quelli che noi sfruttiamo, i nuovi strumenti, i nuovi media, però con dei criteri d'azione per cui a queste reti possono aderire, per esempio nel caso adesso bellunese, solo persone nate a Belluno o comunque con radici bellunesi, sia in seconda, terza, quarta generazione, le quali poi vogliamo mettere in contatto con l'imprenditoria locale e con tutti gli imprenditori italiani nel mondo che intendono far parte di questa rete globale. Quindi una specie di, chiamiamolo, Rotary in internet, no? L'idea comunque è quella di non far perdere competenze importanti che sono espatriate per causa del brain drain e rimetterle in gioco in qualche modo anche nel nostro paese. Il fenomeno del brain drain ormai è qui da decenni, no? È un fenomeno che non si può fermare, però è un fenomeno che si può valorizzare se si riesce a mettere in contatto tutte queste persone emigrate, specialmente tutti i nuovi emigrati, quindi quelli che escono, questa brain mobility che esce negli ultimi 20-30 anni e adesso negli ultimi anni ancora di più, per valorizzarli, no? Perché questi vanno in giro per il mondo. L'obiettivo di queste piattaforme non è quello di farli ritornare in loco, ma è quella di usufruire di questi contatti in tutto il mondo per dare un valore aggiunto alla regione o provincia di appartenenza. Anche perché perdiamo soprattutto giovani, laureati, capitale umano qualificato. Sì, sì. Per esempio nella piattaforma degli altoatesini nel mondo, dei 1500 membri che fanno parte della piattaforma, sicuramente 1400 sono laureati. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.braindoc.ch. Un motivo per restare o tornare. E torniamo a parlare in chiusura di Umbria. BrainBack è il nome del progetto promosso dall'Agenzia Umbria Ricerche per contrastare la fuga dei cervelli. Il programma ha pure l'obiettivo di supportare la creazione di nuove imprese ed immigrati sul territorio regionale. A breve la pubblicazione del concorso di idee imprenditoriali finalizzato a favorire il rientro degli immigrati umbri attraverso lo startup d'impresa. Info a brainbackumbria.eu.